Letture di Radio 24. L'ultimo rapporto Eurobarometro è dedicato all'analisi della percezione da parte dei cittadini europei dei temi di tecnologia ambientale, dell'energia e della vita. Secondo i dati raccolti, i cittadini d'Europa si aspettano grandi benefici dalle biotecnologie e hanno fiducia nelle decisioni pubbliche su questi temi. Dal rapporto risultano anche, però, una diffusa ignoranza sulle nanotecnologie, alcune riserve circa il nucleare e forti dubbi sugli OGM. Qual è il dato positivo contenuto nel documento? Che almeno tra i cittadini il dibattito tra favorevoli e contrari non è ideologico, ma orientato alla comprensione delle nuove frontiere della vita e dell'uomo. Così anche scienza e fede non sono più viste come avversarie fra loro. E di questo l'Europa può farsi un vanto. Sull'alleanza tra tecnologia e scienza si gioca una partita decisiva per la crescita economica e sociale dell'Europa, per il suo progetto politico, per la leadership europea nel mondo. L'Eurobarometro misura periodicamente cosa pensano i cittadini delle nuove tecnologie dell'ambiente, dell'energia, della vita. L'ultimo rapporto dell'Eurobarometro rileva l'ottimismo degli europei per le biotecnologie e la loro fiducia nelle decisioni pubbliche, ma anche l'ignoranza sulle nanotecnologie, le riserve sul nucleare e sull'etica della ricerca e i forti dubbi sugli OGM. Pensiamo spesso che un'etica pubblica condivisa sia resa impossibile dall'eterno conflitto tra verità di fede e verità scientifica. Invece, il rapporto non attesta grandi differenze nella percezione delle biotecnologie tra chi crede e chi non crede, tra cristiani e non cristiani. Gli islamici sono i meno ottimisti, i non religiosi sono i più ottimisti, ma le distanze sono minime, come anche tra protestanti, cattolici e ortodossi. Maggiori sono gli scarti sulla ricerca su cellule staminali embrionali, con ancora i due poli opposti, i musulmani, ostili per il 65%, e i non religiosi, favorevoli per il 64%. Se poi si chiede agli europei chi debba prevalere tra scienza e religione, l'appartenenza confessionale non conta più. I musulmani si dividono, come i cattolici e i non religiosi. Il 55% antepone la scienza alla fede. Si inverte la posizione tra i protestanti, per il 57% dei quali l'etica deve prevalere sulla scienza. Analogamente si dividono i credenti meno praticanti e quelli più praticanti, il quasi 50% dei quali antepone la scienza alla fede. Sulle biotecnologie gli europei non ubbidiscono ai dogmi, ma si interrogano e interrogano. Le chiese stesse preferiscono studiare e orientare, come ha fatto la Pontificia Accademia delle Scienze nel 2009 sugli OGM. La fede alimenta il dibattito e rifiuta le barricate. È la forza di un'Europa che vuole discutere di biotecnologie, senza guerre di religione. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marco Ventura dal titolo Europa, religioni e biotecnologie. Il no ai dogmi unisce tutti, dal Corriere della Sera del 30 novembre. Letture di Radio 24. Dopo decenni di attesa, apre oggi a Milano il Museo del Novecento, gratuito per i primi 3 mesi. È ospitato nelle 2 strutture fasciste al lato del Palazzo Reale in Piazza Duomo. Un percorso espositivo, spiega l'architetto che ha disegnato il museo, spezzato, come spezzato è stato il Novecento. La grande prima dicembrina a Milano è sempre quella della Scala. Con la crisi o senza crisi, con o senza lamentele per il troppo sfarzo e il poco chic, la sera di Sant'Ambrogio resta il segnale d'inizio della stagione cultural mondana. Ma quest'anno no. A inaugurare l'inverno cittadino sarà invece la marcia trionfale dei lavoratori del quarto stato di Pellizza da Volpedo, che domenica prossima accoglierà gli invitati all'apertura del nuovo museo del Novecento. Chi arriva con la metropolitana sbuca direttamente nell'ingresso, spiega l'architetto Italo Rota, progettista dell'opera, e subito alla sua sinistra ecco ergersi il quadro, un'icona del Novecento, un simbolo, come Guernica di Picasso o le Marilyn di Warhol. Dipinta nel primo anno del secolo e con tutte le speranze aurorali del momento, questa tela è stata da subito pensata come il punto di partenza del percorso, il motore dell'esibizione. Invocato da decenni e finalmente reso possibile nel 2000 da un concorso internazionale bandito dal comune, il museo è stato immaginato e attuato dentro il guscio dell'Arengario, l'edificio a due torri progettato nella seconda metà degli anni 30, eretto in Piazza Duomo accanto al Palazzo Reale e mai finito. Doveva essere il museo della nascita del partito fascista, informa Rota. Divenne, dopo il 45, una specie di souk commerciale, ingombro di negozi e negozietti. Dal 60 in poi, il pian terreno fu adibito a sede dell'ufficio del turismo, gli altri piani occupati da scrivanie impiegatizie e archivi comunali. Aperto nel 2003 il cantiere museale, ci sono voluti ben 7 anni per consegnare finalmente l'Arengario a un destino migliore. Ne è valsa la pena, però. Granitiche torri gemelle, leggiadramente fregiate dai bassorilievi di Arturo Martini in facciata, i due novecenteschi edifici sembrano davvero lo scrigno ideale per custodire una raccolta di opere che raccontino dal futurismo agli anni 70 la storia dell'arte italiana del XX secolo. Ma se l'esterno del museo è una testimonianza di quell'arte, l'interno immaginato da Rota s'affida a una suggestione più vasta. Il secolo è lo stesso, ma i confini dilatati. Insomma, passata la grande cappella del quarto stato e inoltrandosi lungo la rampa a spirale che si eleva, tornata dopo tornata verso il cielo, quello che entra dalle vetrate e quello inciso da Lucio Fontana in un grande soffitto di cemento all'ultimo piano, il visitatore è costretto a evocare la rotonda del Guggenheim di New York. Rota al paragone ci sta, anzi, ci gioca. Beh, allora però diciamo che questo è il negativo di quello. Il Guggenheim è vuoto dentro e pieno fuori. Qui invece si è fatto il contrario. E cioè, invece di affacciarsi su una tromba d'aria di luce come nel museo di Manhattan, la spirale dell'Arengario gira attorno a un grande corpo cilindrico che contiene una parte dell'esposizione. Chiamato familiarmente il cactus durante i lavori del cantiere, il corpo cilindrico e gli spazi al suo interno sono una delle tante articolazioni di un percorso che Rota ha voluto continuamente spezzato. Perché? Perché il visitatore non deve mai trovarsi nella situazione di smarrimento che provocano quei musei onnivori dove a un certo punto tutto ti vortica attorno, indistinto. Qui invece c'è sempre l'idea di non confonderti, di chiudere un discorso e di aprirne un altro. Concentrazione, esaltazione, individuazione. Parole d'ordine che hanno portato a scelte calibratissime, essenziali. Delle 4.000 opere che costituiscono il fondo comunale, al museo ne sono esposte soltanto 350, più altre 50 provenienti dal Museo Marino Marini. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Maria Giulia Minetti, Museo del Novecento, la cavalcata degli italiani, pubblicato dalla Stampa di martedì 30 novembre. L'espressione via Francigena indica gli itinerari che nel Medioevo collegavano la Francia a Roma e quindi all'Italia. Un fascio di sentieri che a tratti si riuniscono per superare un valico o guadare un fiume, per poi disperdersi nuovamente sulle colline o nelle pianure. Era percorsa da migliaia di pellegrini e per questo costellata di tappe spirituali e di sosta per il riposo dei viandanti. Oggi, dopo secoli di abbandono, si parla di un suo recupero in chiave turistico-religiosa, ma nelle buone intenzioni si inseriscono anche progetti meno avveduti, come una Via dei Sapori, che poco ha a che fare con lo spirito della Via Francigena. Si torna con entusiasmo in queste settimane a parlare di Via Francigena, cioè la via che veniva dalla Francia o che vi andava e sulla quale transitavano i pellegrini franci, vale a dire ultramontani. Era in realtà un fascio di sentieri che si univa solo in certi punti obbligati. Passi montani, ponti, guadi, sorvegliati regolarmente da ospizi e che dalle Alpi occidentali attraverso Val d'Aosta e Piemonte giungeva fino a Roma per proseguire da lì, prevalentemente seguendo i tracciati delle antiche vie consolari Appia e Traiana, fino ai porti pugliesi. In realtà si trattava del tratto italiano dell'itinerario, percorso da pellegrini, ma non soltanto da loro, che collegava nel Medioevo i massimi centri di pellegrinaggio, le città santuario di Santiago di Compostela, di Roma, di Costantinopoli e di Gerusalemme, raccordandoli attraverso un capillare sistema di itinerari e di verticoli minori ad altri santuari, centri di culto soprattutto, ma non solo, mariani e micheliti. Trattarla da itinerario rigido, come se si trattasse di una strada romana o di una moderna autostrada, è pertanto assurdo. Bisogna ricorrere al concetto di area di strada, elaborato anni fa dal grande medievista piemontese Giuseppe Sergi, per rendersi conto della sua importanza territoriale, che interessava per intero le regioni attraversate. Ma né Sergi né altri studiosi competenti sono mai stati interrogati dai politici e dagli operatori massmediali che da anni ormai si occupano di Francigena e che si sono letteralmente spartiti, fagocitandoli e disperdendoli, montagne di denaro pubblico quasi sempre in spregio alla storia e alla fede, favorendo magari agriturismi, albergatori, produttori di specialità alimentari e teatranti, e dimenticando altresì i veri sodalizi di autentici pellegrini, che ci sono ancora e che percorrono numerosi a piedi o in bici quella strada, spesso male o per nulla segnalata. Qualche furbo operatore turistico ha di recente proposto una via dei sapori del pellegrino, nell'intento di meglio smerciar vini, olio, formaggi e salumi, come se il pellegrinaggio fosse stato una passeggiata e come se il povero pellegrino cristiano non dovesse accontentarsi se non di qualche povera zuppa ed una tazza di vino inacidito. Bisognerebbe, a non dir altro, replicare ai furbastri gourmet, facendo una storia olfattiva del pellegrinaggio, descriverne gli odori, gli afrori, le puzze. Chi come me ha percorso più volte a piedi il cammino di Santiago conosce il santo tanfo degli ospizi lungo la via, quello del sudore, delle camicie stese ad asciugare, dei maleolenti scarponi, dell'acre e pungente unguento per le piaghe dei piedi che spesso tendono a suppurare. La strada, quella vera, puzza. Altro che balsamica aria di boschi, di passi montani, di freschi ruscelli. A purificar quell'aria viziata dai santi ma poco puliti pellegrini, funzionava di continuo nella cattedrale di Santiago il grande incensiere oscillante, il Botafumeiro. Ditelo a quelli che oggi si godono il turismo religioso sui pullman di lusso, accessoriati e con aria condizionata. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Franco Cardini intitolato Via Francigena, fuori i mercanti, pubblicato da L'Avvenire del 30 novembre.